Com'è stretta sta via, a gente non c'è capo, se fa la processione che cammina chiano chiano. Non è morto nessuno, non ne osante nessuno, non si sente una voce e non suona la campana. E intanto corre aspetta che sarà buona fontana, e chiama in capo a creatura, volesse arrabbiare sta luna con la funa, mamma porta lontana, mamma porta lontana, addo cielo che cielo non se fa mai scuro. Nessuno volesse comandare per spremere l'olore in tasto sciumamare che non conosce amare, perché amare è lontano eppure sta vicino. Sta via perché non spunta mai, se perde d'interprete miezze carte ravugliate sotto le vere mura che s'arrampa che giura, e gli stemma riuorna e serate senza pane, e intanto core aspetta sarà bene fontana, e chiama in capo e creatura, volesse arrabbiare sta luna con la funa, e ma porta lontana, e ma porta lontana, addo cielo che cielo non se fa mai scuro. Nessuno volesse comandare per spremere l'olore in tasto sciumamare che non conosce amare, perché amare è lontano eppure sta vicino. Sto sciumamare che non conosce amare, perché amare